cosa è successo? È successo che alle 8:30, diciamo 8:29, una cosa del genere, di venerdì 18 gennaio al mattino, hanno staccato la spina, hanno ucciso il portale, l'hanno cancellato, diciamo, dalla sua presenza in rete. Tutto ciò senza alcun preavviso né comunicazioni, né, ok, il ministro Rutelli nell'autunno scorso aveva pubblicamente detto che secondo lui il portale era da chiudere perché faceva schifo ed era irrecuperabile, però da allora poi nessun altro tipo di segnale era venuto e niente, quindi all'improvviso è stato ucciso il portale. Sono passati un giorno, più o meno uno o due giorni, senza che ci fossero alcun tipo di comunicazioni. L'unico segno di vita è stato il giorno dopo di sera, un'agenzia stampa che riportava le parole di un ingegnere del DIT, che è un dipartimento per innovazione tecnologica del governo, il quale così en passant implicitamente confermava che di chiusura ufficiale si trattava, perché fino a quel momento uno poteva pensare che un impiegato IBM si fosse fatto esplodere sui server, per quanto se ne sapeva. Dopo questo segnale, lunedì, quindi già ormai dopo due giorni, un segnale un po' più deciso, quindi un'agenzia ANSA che titolava in maniera esplicita chiuso il portale Italia IT e riportava di nuovo le parole di questo ingegnere che si chiama Ciro Esposito, il quale a chiare lettere diceva che la decisione era stata politica, che il ministro prima Rutelli e poi Nicolais come, diciamo, attuatore della cosa avevano deciso di chiudere il portale, questo ovviamente perché veniva giudicato irrecuperabile. Sì, la chiusura di un sito internet attivo, anche se appunto sulla parola attivo insomma potremmo discutere molto, è abbastanza grave, anzi forse in rete piuttosto grave, un po' come chiudere un negozio che fino a quel momento stava funzionando, magari un negozio brutto che funzionava male, però insomma pur sempre aperto. La storia di Italia.it, seppur breve, è una storia molto complicata, molto complessa e, come voi definite nel vostro portale, rappresenta un po' uno scandalo, uno dei tanti scandali italiani. Sono stati spesi tra l'altro un sacco di soldi. Tutto nasce quando? Ma tutto nasce nel 2004, nel marzo del 2004, quando sotto l'allora governo Berlusconi viene varato questo progetto faraonico che metteva sul piano di fattibilità a fabbisogno 180 milioni di euro, che è una cosa dadaista per un sito web, una cosa surreale, per fare questo portale del turismo che avrebbe dovuto rilanciare l'economia italiana, che doveva contenere tutto lo scibile umano per quanto riguarda la storia, il paesaggio, le prenotazioni. In teoria si poteva prenotare tutto dal bagno, dall'ombrellone al bagnomaria fino al grand hotel di lusso, insomma una cosa faraonica. I tempi poi si sono dilatati, come sempre succede con la pubblica amministrazione, il progetto scompare, ricompare, vengono stanziati effettivamente nel corso, diciamo, di questi tre anni una cifra che si aggira sui 58 milioni di euro, quindi non spesi ma dedicati al progetto, quindi presi dalle casse dello Stato e messi lì pronti per essere spesi per quel progetto. Viene fatto un bando, passa un anno, passano i mesi, ci sono le regioni di mezzo, una complicazione e una farraginosità senza limiti e soprattutto una storia di incompetenza totale, di quello che è ancora forse più grave, altrettanto grave, di mancanza di trasparenza assoluta nei confronti dei cittadini, nel senso che questo portale, una volta lanciata l'idea, è entrato in un limbo buio da cui non si è più saputo nulla, tanto è vero che il blog Scandalo Italiano nasce in maniera molto spontanea, perché con altre persone che osservano le cose web, noi da anni ridevamo di questa barzelletta del portale da 50 milioni di euro, di cui non si sapeva nulla, che non usciva mai, che veniva quando c'erano elezioni, per esempio quando ci furono le elezioni del cambio di governo tra Berlusconi e Prodi, subito prima delle elezioni il ministro Stanca andò a fare una conferenza stampa in cui virtualmente lanciava un portale che non esisteva ancora, che poi è uscito più di un anno dopo, dicendo che sarebbe andato online a giorni, che era una grande opera telematica di quel governo di allora, su e giù. Quindi una storia di fanfaronaggine, incompetenza totale, totalmente priva di trasparenza.